Investire informati. E allora, tanti risparmiatori sono rimasti delusi quando, arrivati alla scadenza del proprio buono, le Poste, tempo addietro, hanno proposto la liquidazione di cifre nettamente inferiori a quelle che si aspettavano. Parliamo appunto di una serie particolare di buoni che promettevano alla scadenza di ottenere addirittura il doppio della cifra iniziale investita, in alcuni casi il triplo. L'ultima volta che ne avevamo parlato era stata in occasione di una pronuncia dell'arbitro bancario finanziario a favore di una signora di Pistoia che aveva denunciato la sua situazione. L'arbitro bancario le aveva dato pienamente ragione. Da qualche giorno abbiamo scoperto invece che ci sono in giro in Italia giudici e sentenze che stanno avendo un orientamento non esattamente favorevole appunto ai consumatori, ai risparmiatori. Ci ha tenuti sempre aggiornati su questa situazione l'amico Alessandro Pedone, responsabile dell'area risparmio dell'Associazione dei Consumatori ADUC, che è tornato stamattina a collegarsi con noi. Pedone, buongiorno, ben ritrovate, grazie. Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Peraltro anticipo già che per tutta un'altra storia anche domani avremo ospite del nostro programma l'Associazione dei Consumatori ADUC, perché sta seguendo molto bene determinate storie per cui noi abbiamo voluto fare questa settimana il bis con loro. Chiusa parentesi. 800 24 00 24, intanto il numero verde per i nostri ascoltatori a cui chiediamo naturalmente, se volete prenotarvi, se vi siete trovati di fronte ad una delusione da buoni e postali. Dottor Pedone, lo abbiamo ricordato più spesso, una categoria di prodotti finanziari, tra l'altro tra virgolette di prodotti di risparmio, che sono ancora molto in voga, in cui le famiglie italiane tengono investiti, se questo è il dato ultimo che abbiamo, speriamo che sia ancora così, che sia corretto quantomeno come informazione che diamo agli ascoltatori, oltre 200 miliardi di euro di risparmi. Quindi chiedo agli ascoltatori: siete tra questi? A qualcuno di voi è capitato di trovarvi a scadenza di fronte ad una liquidazione da parte delle Poste molto inferiore rispetto a quella che pensavate di aver sottoscritto? Allora, volevo ricordare con lei, dottor Pedone, un po', come dicevo prima, le puntate precedenti. Chi sono coloro interessati alla vicenda dalla quale parliamo oggi, di quali buoni postali stiamo parlando e cosa è successo nelle ultime puntate? Pedone. Sì, allora, cosa è successo? Sostanzialmente una serie di risparmiatori, è una piccola parte rispetto al grande stock di sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi che ricordava prima. Una parte, nel momento in cui è andata a chiedere il rimborso di questi buoni, ha ricevuto una proposta di rimborso da parte delle Poste largamente inferiore rispetto alle attese, e le attese derivavano da ciò che sta scritto sul retro. Si parla ancora di buoni postali che cartacei, quindi non quelli dematerializzati che si fanno adesso, quindi sono buoni postali emessi molto tempo fa, a volte 20 anni fa, a volte 15 anni fa, ma a volte addirittura 30 anni fa. E sul retro riportavano scritto quanto avrebbe, diciamo, questo buono visto essere rimborsato alle determinate scadenze. Questo però, questo successo, questo fatto che è uguale in molti casi, deriva da situazioni diverse, da due situazioni diverse in particolare. In un caso prima del 1986 fu emesso un decreto che consentiva alle Poste, in funzione anche di una legge precedente che permetteva alle Poste di cambiare i tassi, questo decreto cambiò tutti i tassi precedenti. Quindi coloro che si ritrovavano, che vanno in questa categoria, cioè che la differenza di rimborso è dovuta ad una specifica legge dello Stato, questi purtroppo non possono fare nulla, devono accettare questa situazione. Ma ci sono invece altri casi dove questa differenza tra quanto hanno loro scritto e quanto le Poste gli vogliono riconoscere deriva dal fatto che le Poste hanno sbagliato a consegnargli materialmente quel buono che non era più in vigore nel momento in cui l'hanno sottoscritto. Quando quindi la mancanza di la differenza di rimborso deriva da un errore delle Poste, sono le Poste responsabili. Quando deriva invece da una legge, purtroppo non si può fare nulla. Allora, tanto voglio precisare che naturalmente noi abbiamo chiesto alle Poste di partecipare al nostro programma e per la seconda volta consecutiva, perché era già successo nella trasmissione precedente, ci hanno cortesemente rifiutato l'invito dicendoci: noi siamo solo distributori dei buoni fruttiferi postali, l'emittente, la Cassa Depositi e Prestiti, che invece ha accettato l'invito a venire a Cuore e Denari. Noi in realtà siamo un po', come dire, anche perplessi rispetto a questa risposta. Poi non so, dottor Pedone, se lei è d'accordo, perché anche a giudicare dalle decisioni ultime che hanno preso alcuni tribunali appunto in Italia, quelle quantomeno le decisioni che avevano dato ragione a determinati risparmiatori, poi spiegheremo che cosa contestavano o meno, in realtà poi certe decisioni di alcuni tribunali sono state impugnate e hanno presentato ricorso proprio le stesse Poste, per cui io mi chiedo perché dicono di non aver titolo di pagare, di parlare in una trasmissione radiofonica, poi però hanno titolo a fare ricorso contro certe appunto pronunce di giudici sparsi sul territorio. Lei che dice? Ma naturalmente non posso rispondere per altri, mi sembra una cosa un po' perplessa, un po' diciamo curiosa, direi. Curiosa anche perché è proprio dal loro ruolo di collocatori che noi stiamo contestando, cioè loro hanno fatto degli errori in alcuni casi, non in quelli dovuti alla legge, ma negli altri loro hanno fatto un errore di collocamento e quindi noi chiamiamo a rispondere di questo loro comportamento in sede di collocamento. No, diciamo che poi molti uffici fanno anche i consulenti di risparmio per molte persone e probabilmente suggeriscono anche invitano anche le persone a sottoscrivere prodotti di investimento di questo tipo, pertanto noi ancora una volta accetteremo la loro partecipazione, li accoglieremo volentieri quando noi decideranno di venire. Noi diamo sempre una seconda chance. Esatto, un po' come mi sa succederà a seguito della puntata di ieri, così la butto là, poi lo spiegherò ai nostri ascoltatori. Abbiamo fatto, dottor Pedone, un altro tema sul quale lei, sono certa, si divertirebbe molto, se non lo sta già facendo nei suoi uffici, i mutui in franchi svizzeri con Barclays. Ecco, guai, ieri si ascolti la puntata. Vedi, che si diverte molto. Allora, detto questo, buoni fruttiferi postali sottoscritti naturalmente presso le Poste Italiane, un decreto del Ministero del Tesoro emanato il 13 giugno del 1986 ha istituito una nuova serie di buoni con la lettera Q, dottor Pedone. Perché è importante ricordare anche questo aspetto? Perché appunto questo purtroppo è il caso dove si trovano una serie di risparmiatori, ma che purtroppo non possono fare nulla, perché questo è il caso che deriva dalla legge. Quindi chi si ritrova in questa situazione, cioè erano buoni emessi prima di questa data, cioè del giugno del 1986, hanno sicuramente mille ragioni a lamentarsi, a dire che è un'ingiustizia, che loro si aspettavano una certa cifra. Peraltro, di quanto è stato decurtato il capitale iniziale? Allora, il capitale iniziale non è l'investimento iniziale, diciamo. L'investimento iniziale non è che hanno una perdita, ma hanno un rendimento che talvolta è anche la metà di quello che si aspettavano. Quindi, che so, persone che si aspettavano di ricevere 10.000 euro e in realtà ne ricevono 5.000, quindi loro hanno tutte le ragioni, diciamo, a lamentarsi, a dire che è un'ingiustizia, ma quello che abbiamo sempre detto noi, anche nella trasmissione precedente, abbiamo detto purtroppo questa è un'ingiustizia a cui non si può porre rimedio, o noi riteniamo che sia più rischioso, eccessivamente rischioso, tentare di porre rimedio per vie giudiziali, perché si rischia seriamente di avere il danno mantenuto, ma anche la beffa delle spese legali. Ecco, ti mangi quei 5.000 euro. Esatto, subito, che magari potresti riportarti a casa. Allora, noi abbiamo ricordato all'inizio che abbiamo deciso di rifare la trasmissione perché ci sono sentenze e decisioni recentissime da parte di alcuni tribunali italiani che sono tornate, mentre all'inizio sembrava che la giurisprudenza italiana desse ragione molto frequentemente appunto ai risparmiatori che ricorrevano contro queste decisioni appunto delle Poste, in realtà a quanto pare ultimamente si stanno un po' ribaltando le cose, per cui anche per questo motivo Alessandro Pedone dice: prima di avventurarvi nell'iniziativa legale pensateci un attimo, cercate di capire se ci sono i presupposti per avere quantomeno ragione, anche se parzialmente. Quindi adesso spiegheremo anche cosa sta succedendo in Italia, tra un po' ci raggiungerà un legale di Cassa Depositi e Prestiti per capire come stanno seguendo tutto ciò. 800 24 00 24 intanto tramite il numero verde che potete continuare a comporre come state già facendo per raccontarci la vostra situazione. Ci sono già pronti alcuni ascoltatori, fra un po' sentiremo Gaetano da Monza, ma riepilogheremo anche la situazione di Lorella, che era l'ascoltatrice che poi avevamo passato come informazione all'ADUC appunto di Alessandro Pedone, che aveva proprio contratto un buono postale nel 2001 investendo l'equivalente di 25 milioni di lire e poi si era ritrovata invece ad aprile di un paio d'anni fa, quando il prodotto era arrivato a scadenza, a dover incassare circa un importo, praticamente lei pensava addirittura 38.000 euro lordi e addirittura le Poste invece le volevano riconoscere 17.000 euro. Cuore e denari. Arrivano i buoni, arrivano, finalmente. Hanno capito che... il buono fruttifero postale. Anche voi avete in mano un buono fruttifero da cui vi aspettavate un rendimento molto sostanzioso, ne avevate sottoscritto uno prima del 1986, quindi siete fra i risparmiatori delusi che hanno trovato poi una liquidazione nettamente inferiore rispetto a quella che si aspettavano, oppure è successo qualcosa del genere anche per sottoscrizioni successive e non avete capito bene il perché. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Questa mattina stiamo ritornando su una questione che abbiamo già trattato in passato, ma ci sono sempre delle novità per cui occorre riproporla, anche perché si tratta di una forma di risparmio molto diffusa fra gli italiani, per cui è bene fare chiarezza anche con tutte le novità che poi leggiamo sui giornali. In questo ci aiuta sempre Alessandro Pedone, responsabile ADUC per la tutela del risparmio. Tra qualche istante ci raggiunge l'avvocato Stefano Giannunzio dell'area legale della Cassa Depositi e Prestiti. Intanto 800 24 00 24, continuate a prenotare appunto le vostre telefonate. Allora Pedone, dove eravamo rimasti? Al caso della famosa Lorella toscana, per questo io l'avevo mandata da lei, che era proprio un caso emblematico della vicenda che stiamo ripercorrendo questa mattina. Cosa era successa a Lorella? Che cosa era stato stabilito per lei? Non mi ricordo se dall'arbitro bancario finanziario che l'aveva dato ragione. Come si sta orientando invece di recente la giurisprudenza? Sì, allora, il caso di Lorella era il classico caso dove l'errore era un errore postale, cioè la signora aveva sottoscritto un buono, gli era stato consegnato un buono fisico, che però era diverso dai buoni che erano in vigore in quel momento. Rispettando quello che stava scritto sul retro di questo buono, che le Poste gli avevano consegnato per errore, giustamente la signora Lorella era convinta di ricevere a scadenza circa 38.000 euro. Nel momento in cui è andata a chiedere il rimborso, le Poste gli hanno detto: questo non era il buono in vigore alla data in cui l'ha sottoscritto, il buono in vigore alla data in cui l'ha sottoscritto prevedeva 17.000 euro. E la signora Lorella giustamente ha detto: ma è un errore vostro, confidavo su questa cosa. Hai voglia loro a dire che l'emittente è la Cassa Depositi e Prestiti? Come mai c'hanno delle robe che consegnano per errore in giro? Ma io veramente questi qua non li capisco. E quindi ecco, questa è la cosa. Ovviamente questi sono casi molto semplici da risolvere, perché attraverso l'arbitro bancario e finanziario, passando un po' di tempo purtroppo, perché è un buon istituto, esatto, che diciamo è stato un po' preso d'assalto dai vari risparmiatori, ma anche utenti bancari, perché si occupano molto anche di aspetto più tradizionalmente bancario, bonifici, cose di questo tipo, e quindi le risorse non sono molte, le decisioni arrivano non nei 90 giorni che dovrebbero arrivare, ma molto spesso ci si mette anche un annetto. Però il costo è estremamente contenuto, perché sostanzialmente di spese vive sono una ventina di euro, e quindi poi danno delle risposte efficaci e coerenti. Quindi in questo caso, passato un po' di tempo, la signora Loretta ha ricevuto questo pronunciamento dell'arbitro bancario e finanziario, è andata in Poste con questo pronunciamento, si sono presi anche loro un po' di tempo per questioni un po', ora sono di dietro. È vero, però Lorella è rientrata lei ha ricevuto adesso i suoi 38.000 euro. Benissimo. E invece allora, sulla scia di una serie di ricorsi presentati da un'altra associazione dei consumatori, il Movimento dei Consumatori appunto, su questi buoni fruttiferi postali che sulla stampa ho ritrovato ribattezzati svalutati, in realtà l'orientamento appunto di addirittura alcuni tribunali sembra essere diverso, dottor Pedone, più favorevole alle Poste, quindi a Cassa Depositi e Prestiti. Sì, perché questo si tratta invece dell'altro caso, il caso in cui non è colpa delle Poste che avevano consegnato un buono diverso da quello in vigore in quel momento, ma il buono era corretto, ma poi c'è stata la legge che ha cambiato i tassi. Questo problema nell'86 fu affrontato da una marea di cause, giustamente, contro questa che è oggettivamente un'ingiustizia. Ma tutte queste cause sono... Non hanno presupposto. Diciamo, perché la legge... siccome c'è una legge e quindi certo. La questione sembrava oramai pacificamente a favore del comportamento dello Stato. Perché, poi di conseguenza, perché la Corte Costituzionale in realtà nel 2003 ha... Addirittura la Corte Costituzionale aveva posto per noi una pietra, un macigno su questa questione. Mm. Però poi recentemente... la questione è stata riproposta, avete detto voi da chi e in quale forme, e un giudice di pace, che io ricordo, il giudice di pace non decide in base alla legge. Il giudice grammatico, peraltro, si chiama, quindi esatto. Lo volevo ricordare, ecco. Ma decise in base ad equità. Equità significa sostanzialmente che quello che ritiene giusto, dopodiché ci sono i giudici ordinari, che i tribunali di primo, secondo grado, eccetera, che invece devono rispettare la legge. Quindi un'associazione di consumatori ha raccolto un po' di clienti delusi, giustamente delusi, ripeto, loro hanno tutte le ragioni del mondo ad essere delusi, e hanno trovato un giudice di pace, ci sono due sentenze, questa di un giudice di pace e un'altra, mi sembra di un giudice, non vorrei dire, ma mi sembra che sia un giudice ordinario, l'altra. Penso anch'io, ho la notizia sotto gli occhi, il giudice Luigi Acquarone, che ha pronunciato addirittura 3 sentenze favorevoli a Poste Italiane. Ecco, quindi diciamo l'anno scorso questo giudice di pace aveva dato ragione ai sottoscrittori, quindi ai clienti. Ma noi eravamo estremamente scettici, tant'è che noi poco dopo facemmo una puntata, mi ricordo, l'anno scorso. Invitando alla prudenza, si tratta di un giudice di pace, ma che c'era giurisprudenza ampiamente favorevole allo Stato con la Corte Costituzionale, quindi il massimo organo possibile, e quindi ero molto scettico sugli esiti che potevano avere questa sentenza. E la novità per cui diciamo stiamo parlando di questo argomento è che poi questa sentenza è stata ovviamente impugnata dalle Poste, e le Poste hanno vinto, come era più che logico aspettarsi. E il problema è che le conseguenze poi sono che le spese legali in alcune circostanze vengono compensate, cioè le Poste si paga le sue e i risparmiatori si pagano le proprie, ma in altre circostanze possono essere addebitate le spese legali proprie e quelle delle Poste. Quindi si tratta in alcuni casi di spendere più soldi di quelli che si aspettava di avere come rimborso. Allora... Sì, abbiamo capito perfettamente. Bisogna fare molta attenzione al caso del quale si è malcapitati protagonisti. Se si ha in portafoglio un buono fruttifero postale che abbiamo sottoscritto presso le Poste, ma è un buono che le Poste non avevano titolo a collocare perché era sbagliato secondo determinati requisiti, allora possiamo eventualmente intraprendere un'azione legale. Se invece banalmente c'è solamente una modifica di condizioni di interesse che è stata fatta perché la norma lo consente, non abbiamo diritto nel fare alcun tipo di azione legale. Ho sintetizzato proprio all'estrema estremamente, esatto. Allora, avvocato Giannunzio, è un legale della Cassa Depositi e Prestiti, si sarà divertito in questi ultimi mesi ad affrontare questa situazione, oppure per voi è chiara e così, per cui non lo so, c'è poco da dire anche in radio? Lei che cosa ci racconta a questo proposito? E soprattutto, hanno ragione le Poste a non voler parlare, a rifilare la patata bollente a voi? Ovviamente non posso commentare il comportamento di Poste. Quanto al fatto che ci siamo divertiti, in realtà no, perché abbiamo una mole di contenzioso molto elevato, parliamo di circa un centinaio di cause, e quindi tra l'altro sono cause seriali, per cui le motivazioni sono sempre le stesse, e quindi quanto a divertimento c'è poco da dire. È ovvio che mi sono preso una licenza radiofonica, avvocato Giannunzio. Allora, delle richieste seriali, lei le ha definite, che risposte seriali state dando a queste persone? Ma diciamo che per quanto riguarda il caso di cui ci stiamo occupando, cioè dei buoni postali emessi negli anni 80, diciamo subito che si tratta soltanto di 5 serie L, M, N, O e P emesse negli anni 80. Diciamo subito che Cassa Depositi e Prestiti è molto dispiaciuta di questa situazione, che determina evidentemente una penalizzazione per i risparmiatori. I risparmiatori postali sono i nostri tradizionali clienti, che hanno consentito uno sviluppo del risparmio postale da più di 100 anni. Ricordiamo che i libretti nascono nel 1875 e i buoni nel 1924. Mi sono ripresa peraltro, avvocato Giannunzio, la storia dei buoni fruttiferi postali, che è fatta molto bene sul vostro sito, per cui non è che voglio solamente bastonare Poste, Cassa Depositi e Prestiti per questa vicenda. In realtà c'è anche un lavoro di ricostruzione storica che è molto ben fatto sul vostro portale. Chiusa parentesi. Diciamo che il piano postale ha consentito, diciamo, lo sviluppo del paese per oltre 100 anni, nel senso che Cassa Depositi, finanziando gli enti locali e gli investimenti pubblici, no, ha dato corpo allo sviluppo del paese. Quindi, detto questo, volevo anche dire che questo fenomeno è un fenomeno assolutamente irripetibile. Questo va chiarito, perché sento tanti commenti che non rendono giustizia. Cuore e denari. Allora, buoni fruttiferi postali che non rendono quello che ci aspettavamo, una situazione del passato emersa di recente che naturalmente ha danneggiato una serie di risparmiatori in Italia, ma che ci garantisce l'avvocato Stefano Giannunzio dell'area legale della Cassa Depositi e Prestiti non potrà mai più succedere in futuro. Perché, avvocato Giannunzio, perché è stato comunque possibile in un passaggio che le Poste potessero consegnare e distribuire buoni fruttiferi postali che non dovevano circolare, cioè erano proprio dei documenti cartacei che non dovevano essere negli uffici? Guardi, questo è l'altro tema di cui ovviamente su cui non posso intervenire, sul fatto che Poste abbia consegnato buoni di serie diversa da quelle che erano in emissione. E io le stavo dicendo perché il fenomeno è ripetibile con riferimento al fatto dei buoni il cui rendimento possa cambiare in corso di causa. Sì. No, che poi è il tema per cui siamo intervenuti. Volevo dire che questa possibilità era prevista espressamente da una legge del 1973 che prevedeva la possibilità che il Ministero del Tesoro, e non Poste, ma il Ministero del Tesoro con decreto del Ministro, potesse abbassare i tassi per le serie future, e questo è successo. Tuttavia la legge del 73 è stata abrogata. Quindi questa possibilità di modifica degli interessi in corso è assolutamente impossibile. È legata soltanto a un determinato periodo della storia italiana. Tra certo. L'altro, come ha commentato il Tribunale di Milano nella sentenza del 2003, questa legge era essenzialmente stata promossa a garanzia dell'equilibrio finanziario dello Stato. Ma perché sì, i buoni certo, postali erano uno strumento pubblicistico di finanziamento del debito pubblico, avevano durata trentennale, e una durata così lunga poteva portare dei problemi di equilibrio nei conti pubblici. Quindi la ratio di questa norma era soltanto la salvaguardia dei conti pubblici. Proprio anche nella vostra ricostruzione storica dei buoni postali fruttiferi c'è un passaggio in cui sul sito ho trovato questa affermazione. Il saggio di interesse corrisposto ha subito nel corso degli anni, in relazione ai contingenti indirizzi di politica economica, numerose variazioni. Quindi la variazione dei tassi di interesse è direttamente legata allo stato di salute delle finanze pubbliche, dottor Pannunzio. Quello in ogni caso, ogni serie ha un suo tasso, certo. Ma nel caso di specie c'è la possibilità di modificarlo in corsa, è legato a queste dinamiche di conti pubblici e come riconosciuto dalla giurisprudenza. Comunque, però ripeto, non succederà mai più, una modifica in corsa non succederà mai più. Assolutamente. Si partirà già dal basso all'inizio, insomma, se quindi non ci si avventurerà più a riconoscere dei tassi di interesse che poi in futuro non si possono... No, il tasso è quello previsto nel momento in cui viene istituita la serie, e quello resterà, certo. Ovviamente. Avvocato Giannunzio, io ringraziandola per essere stato con noi, poi già stiamo purtroppo andando verso la chiusura e quantomeno vorrei riuscire a sentire uno o due ascoltatori che consegnerò poi nelle mani di Alessandro Pedone. Qualche ultima raccomandazione e informazione da dare su tutta questa vicenda? Cassa Depositi e Prestiti deve rilasciarcela? Ma guardi, io volevo chiudere con due veloci commenti. Il primo è, ho sentito dire che le sentenze di merito hanno, diciamo così, improvvisamente cambiato il loro tenore. In realtà dal 2003 noi abbiamo oltre 40 sentenze che danno ragione a Cassa Depositi e Prestiti e quindi alla legittimità di questo sistema. Ben 40 addirittura. Assolutamente sì, e questo indirizzo giurisprudenziale è assolutamente pacifico, non è che adesso qualche giudice di pace ha cambiato, è sempre stato pacifico, anzi era. Ma le sentenze sono riferite alla questione della modifica dei tassi di interesse con la legge 86 eccetera, ma sul tema della distribuzione però, dottor avvocato Giannunzio, la questione è un'altra. Il tema della distribuzione è quella sulla quale lei non vuole commentare, io la capisco anche. Riguarda un soggetto diverso, non mi sembra corretto parlarne. Comunque, però diverso, ma insomma relativamente, perché Poste Italiane agisce anche per Cassa Depositi e Prestiti, distribuisce delle cose che non vanno, per cui in qualche maniera qualcuno un'assunzione di responsabilità su questa vicenda se la dovrà prendere. Ma è ovvio che ove ciò accada, chi è l'autore del fatto dipenderà dalla sua responsabilità, ci sarà un giudice anche su quella questo. Situazione. E un'ultima cosa volevo dire sul tema della sicurezza del risparmio postale. Il risparmio postale, innanzitutto, ora abbiamo chiarito che la situazione è irripetibile di una modifica degli interessi in corso, ma va anche precisato che è uno strumento di investimento assolutamente sicuro, perché è garantito direttamente dallo Stato, quindi è una forma di investimento che, dato che ha sempre raccolto il favore degli risparmiatori, può continuare ad accoglierlo sicuramente, visto che ha delle garanzie fortissime di restituzione di capitale. Guardi, persino Pedone in certi casi lo sponsorizza, per quanto possa lui, conoscendolo, sponsorizzare determinate forme di risparmio. Le conosciamo le caratteristiche di sicurezza, però poi purtroppo, diciamo, nella storia si è inciampato in questo piccolo incidente di percorso che hanno solo momentaneamente oscurato la reputazione della sicurezza del risparmio postale. Quindi è bene che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscano anche questa vicenda, per quanto complicata sia. Grazie avvocato Giannunzio, buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Purtroppo in 40 secondi di tempo non riusciamo a sentire Marianna da Bari, che voleva raccontarci che nell'83 la nonna le ha fatto un buono trentennale alle Poste, era proprio questo, quando lo ha ritirato la somma non corrispondeva agli interessi che avrebbe dovuto maturare, perché è proprio uno di quelli di cui stiamo parlando questa mattina. Mi dispiace anche per Daniele da Monza, che ci aveva scritto una bella mail, pure lui da raccontarci una situazione di questo tipo, ma lo aveva aiutato in privato Alessandro Pedone. Pedone, 10 secondi per concludere. Sì, sostanzialmente sono d'accordo con quello che diceva l'avvocato precedentemente, sarebbe estremamente importante, ma in 10 secondi non ce la facciamo, magari facciamo un altro tema, tornare all'oggi, cioè vedere come questi prodotti di risparmio postale delle casse dei depositi e prestiti sono via via diventati sempre meno convenienti certo. E anche, diciamo, contravvenendo uno spirito di una norma che diceva che deve avere dei rendimenti comparabili con quelli dei titoli di Stato. Chissà se in questo caso le Poste accetteranno il nostro invito, ci proveremo. A Dai, domani speriamo. Intanto, buona giornata.